Voglio ringraziare tutti i nostri servizi, la ASL, la Questura, la Protezione Civile, tutti i volontari che hanno lavorato per far sì che, il fatto 48 ore, questo luogo potesse essere spostato e riaperto in uno spazio sicuro qui all'autostazione, dove in questi mesi avevamo già accolto l'hub per i vaccini, quindi avevamo già testato lo spazio. In tempo record è stato adibito, da oggi e dalle 14 tornerà ad accogliere le persone che dall'Ucraina arrivano nella nostra città. Sono locali allestiti, sicuri e pronti per offrire tutti i servizi che le persone che arrivano necessitano, quindi dall'identificazione alla registrazione per quanto riguarda la questura e la prefettura, la parte sanitaria, perché alle persone che arrivano nella nostra città diamo un tesserino sanitario provvisorio per poter accedere a tutti i servizi sanitari. Qui c'è anche una parte del nostro sportello sociale con la rete protezione internazionale di ASP che ci serve proprio per accogliere queste persone e indirizzarle rispetto ai loro bisogni. La maggior parte, come sappiamo, vengono accolte nelle famiglie di altri ucraini che sono qui a Bologna, ma ce ne sono altre che hanno bisogno invece di un luogo, di un letto, di un sostegno, quindi possono da qui entrare dentro il nostro sistema comunale della prefettura. Noi abbiamo dall'inizio dell'emergenza circa 3.200 persone che sono arrivate nella nostra città. Più o meno 450 sono entrate dentro l'accoglienza dei CAS, quindi della prefettura, o dentro il circuito SAI, che è il circuito gestito direttamente dal Comune di Bologna, che è stato adattato proprio per accogliere questo tipo di presenza. Abbiamo 120 famiglie, a volte sono gruppi con minori o altre volte singole persone, che sono invece ospitate negli appartamenti che sono gestiti o da associazioni del terzo settore, principalmente dalla Caritas, o del circuito VEST, quindi nel nostro circuito comunale, disponibilità che abbiamo raccolto grazie all'appello che ho promosso come sindaco insieme al vescovo Zuppi, al cardinale Zuppi. Devo dire, abbiamo ricevuto tantissime disponibilità, le stiamo vagliando una a una, facciamo diversi incontri anche online con le famiglie che si sono rese disponibili per informarle su cosa significa accogliere a casa, e mano a mano stiamo inserendo le persone che ne fanno richiesta, perché lo ricordo, la maggior parte stanno andando presso con loro connazionali ucraini. Sindaco, l'inserimento dei minori nelle scuole come sta procedendo? Ma sta procedendo bene, abbiamo ancora pochi inserimenti, semplicemente perché ancora le madri non se la sentono di lasciare da soli i loro bambini, e le possiamo capire in questa fase. Non stiamo inserendo nei nostri poli scolastici, dobbiamo prepararci però per il medio-lungo periodo, perché chiaramente se la guerra continuerà o comunque la situazione della presenza di rifugiati continuerà, è chiaro che sia l'aspetto educativo sia l'aspetto lavorativo diventerà assolutamente fondamentale. Per quanto riguarda le risorse in arrivo dal governo? Vedremo l'ordinanza che verrà firmata proprio in queste ore. Dalle indiscrezioni che abbiamo avuto ci sembra che le richieste che i comuni, molto preoccupati per i costi e per il carico di questa emergenza sulle loro spalle, ci sembra che si vada nella direzione auspicata. È stato molto importante il lavoro dell'ANCI e anche il lavoro, devo dire, del nostro assessore Luca Rezzonervo, perché il nostro obiettivo era innanzitutto far riconoscere al governo che esiste un sistema di accoglienza in questo paese che funziona, in particolare in una città come Bologna, che sta accogliendo il 10% già dei migranti che vengono sia dal Nord Africa che dall'Ucraina. Il 25% del ricordo degli ucraini accolti in Italia è in Emilia Romagna, quindi per noi era importante esprimere il nostro punto di vista, vedere riconosciuto, ottenere che le famiglie accoglienti potessero avere non semplicemente dei rimborsi spese, ma delle risorse per poter dare il supporto psicologico, educativo e sociale che serve, perché noi non stiamo ricevendo dei pacchi, stiamo ricevendo delle persone, non le vogliamo mettere nelle tende, le vogliamo accogliere e vogliamo anche il più presto possibile che siano in condizioni di poter tornare a casa loro. Questo è il desiderio loro più grande, loro vogliono tornare a casa loro. È chiaro che ci sono alcune città dell'Ucraina che sono state rase al suolo e purtroppo questo sappiamo che non sarà possibile, per cui ci dobbiamo attrezzare per tempo. Se il governo riconosce il valore che i comuni hanno saputo costruire in questi anni, sono sicuro che sapremo lavorare bene. Ricordiamoci anche che siamo un paese molto lungo, con tante regioni, e quindi spero davvero che anche le altre regioni inizino ad accogliere, perché è giusto fare così.